ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Martedì 6 giugno 1944. Carissima Kitty, this is the D-Day, ha annunciato a mezzogiorno la radio inglese, e ha ragione. This is the day, l'invasione è iniziata. Stamattina alle 8 gli inglesi hanno cominciato. Pesante bombardamento di Calais, Boulogne, Le Havre e Cherbourg, oltre a Pas-de-Calais, come al solito. Poi una misura di sicurezza per le zone occupate. Tutte le persone che abitano nella fascia fino a 35 chilometri dalla costa devono tenersi pronte ai bombardamenti. Se possibile, gli inglesi lanceranno volantini un'ora prima. Secondo i notiziari tedeschi, i reparti di paracadutisti inglesi sarebbero arrivati sulla costa francese. Secondo la BBC, navi da sbarco inglesi si scontrano con la marina germanica. Conclusione dell'alloggio segreto alle 9, durante la colazione. È stato uno sbarco di prova, proprio come 2 anni fa vicino a Dieppe. Trasmissione inglese, in tedesco, olandese, francese e altre lingue alle 10. The invasion has begun. Dunque, è l'invasione vera. Trasmissione inglese in tedesco alle 11. Discorso del comandante supremo, il generale Dwight Eisenhower. Trasmissione inglese alle 12. This is the D-Day. Il generale Eisenhower ha detto al popolo francese: Stiff fighting will come now, but after this, the victory. The year 1944 is the year of complete victory. Good luck. Ecco arrivato il grande giorno, si prepara una lotta accanita, ma sarà seguita dalla vittoria. Il 1944 è l'anno della vittoria totale. Buona fortuna. Trasmissione inglese all'1. 11.000 aerei sono pronti e continuano a fare la spola per portare le truppe e bombardare le retrovie. 4.000 mezzi da sbarco e piccole barche vanno avanti e indietro incessantemente tra Cherbourg e Le Havre. Truppe inglesi e americane sono già coinvolte in duri scontri. Discorsi di Herb Brondy, primo ministro del Belgio, di Re Håkon di Norvegia, di De Gaulle per la Francia, del re d'Inghilterra, per non dimenticare Churchill. L'alloggio segreto è in subbuglio. Si starà realmente avvicinando la tanta anelata liberazione? La liberazione di cui tanto si è parlato, ma che pure sembra troppo bella, troppo favolosa per poter mai diventare realtà? Quest'anno, il 1944, ci regalerà la vittoria? Adesso non lo sappiamo ancora, ma la speranza ci tiene in vita, ci dà coraggio, ci ridà la forza. Perché con coraggio dobbiamo sopportare le molte paure, le privazioni e le sofferenze. Adesso si tratta di restare calmi, imperturbabili, stringere i denti per non gridare. Possono gridare la Francia, la Russia, l'Italia e anche la Germania, ma noi non ne abbiamo ancora il diritto. Oh Kitty, la cosa più bella dell'invasione è che ho la sensazione che siano in arrivo degli amici. Quei terribili tedeschi ci hanno oppressi e ci hanno tenuto il coltello alla gola così a lungo che gli amici e la salvezza per noi sono tutto. Ora non si tratta più solo degli ebrei, ma dei Paesi Bassi e di tutta l'Europa occupata. Margot dice che forse in settembre o ottobre potrò tornare a scuola. Tua Anne Marie Frank. Post scriptum. Voglio metterti al corrente delle ultime novità. Questa mattina e anche di notte, dietro le postazioni tedesche, dal cielo sono piovuti fantocci di paglia e manichini. Le bambole esplodevano appena toccavano terra. Anche molti paracadutisti sono caduti dal cielo. Tutte queste persone si erano dipinte molto per non dare nell'occhio al buio. Alle 6 di mattina sono sbarcati i primi mezzi dopo che la costa durante la notte era stata bombardata con 5 milioni di chili di bombe. Oggi erano in azione 20.000 aerei. Le batterie costiere dei tedeschi erano già distrutte allo sbarco. è stata costituita una piccola testa di ponte. Tutto va bene, anche se fa brutto tempo. L'esercito e anche la popolazione sono one will and one hope. Venerdì 9 giugno 1944. Cara Kitty, l'invasione procede super bene. Gli alleati hanno preso Bayeux, un paesino sulla costa francese, e adesso si battono per Caen. È evidente che vogliono tagliare fuori la penisola su cui si trova Cherbourg. Ogni sera i corrispondenti di guerra riferiscono delle difficoltà, del coraggio e dell'entusiasmo delle truppe. Succedono le cose più incredibili. Sono andati al microfono anche feriti rientrati in Inghilterra. Attraverso la BBC abbiamo saputo che Churchill voleva partecipare all'invasione con le truppe e solo perché Eisenhower e altri generali gliel'hanno sconsigliato non ha dato esecuzione al suo piano. Prova a pensare che coraggio un uomo così anziano avrà di sicuro già 70 anni. Qui l'eccitazione si è un po' affievolita. Lo stesso speriamo che la guerra termini finalmente entro la fine dell'anno. Sarebbe proprio ora. Le lamentele della signora Van Dan sono noiosissime. Adesso che non può più farci diventare matti con la storia dell'invasione, brontola tutto il giorno per il brutto tempo. Mi vien voglia di metterla in soffitta, immersa in una tinozza d'acqua fredda. Tutto l'alloggio segreto, esclusi Van Dan e Peter, ha letto la trilogia Rapsodia ungherese. Questo libro tratta la vita del compositore, mago del pianoforte e bambino prodigio Franz Liszt. Il libro è molto interessante, ma a mio parere parla un po' troppo di donne. Ai suoi tempi Liszt non era solo il più grande e famoso pianista, ma anche il più grande cacciatore di gonnelle fino ai 70 anni suonati. Liszt in sé era un bravo ragazzo, molto generoso, modesto, benché oltremodo vanitoso. Aiutava tutti. Per lui niente era più alto dell'arte. Andava matto per il cognac e le donne. Non poteva vedere le lacrime. Era un gentleman. Non sapeva negare un favore a nessuno. Non gli importava niente dei soldi. Amava la libertà di religione e il mondo. Tua Anne-Marie Frank. Martedì 13 giugno 1944. Cara Kit, un altro compleanno è passato e adesso ho 15 anni. In realtà ho ricevuto un sacco di cose. I 5 volumi della storia dell'arte di Springer, un completo di biancheria intima, 2 cinture, un fazzoletto da naso, 2 yogurt, un vasetto di marmellata, 2 dolci al miele, formato piccolo, un libro di botanica da mamma e papà, un braccialetto placcato d'oro da Margot, un Patria Book da Van Dan, Malto e Latirus da Dussel, caramelle da Miep e quaderni da Bepp, e poi il clou, il libro Maria Teresa e 3 fettine di formaggio grasso da Kugler. Da Peter un bel mazzo di peonie. Quel povero ragazzo si è dato tanto da fare per trovare qualcosa, ma non c'è riuscito. L'invasione procede sempre a meraviglia, nonostante il tempo orribile, le innumerevoli tempeste, i nubifragi e il mare grosso. Churchill, Smuts, Eisenhower e Harold ieri sono stati nei paesi francesi invasi e liberati dagli inglesi. Churchill era su una torpediniera che bombardava la costa. A quanto pare quell'uomo, come tanti altri, non sa che cosa sia la paura. Invidiabile. Da queste retrovie non si capisce di che umore siano gli olandesi. Senza dubbio la gente è contenta che questi inglesi sfaccendati si siano finalmente rimboccati le maniche. Non si rendono conto di quanto sono ingiusti se continuano a dire che non vogliono l'occupazione inglese. Tutto sommato il succo della faccenda è questo. L'Inghilterra deve combattere, battersi e sacrificare i suoi figli per i Paesi Bassi e gli altri territori occupati. Gli inglesi però non devono fermarsi qui, devono scusarsi umilmente con tutte le città occupate, restituire l'India al proprietario originale e poi, indeboliti e senza un soldo, tornarsene in Inghilterra. Povero scemo quello che immagina così la situazione. Eppure, come dicevo, molti olandesi devono essere considerati dei poveri scemi. Mi chiedo allora che cosa ne sarebbe stato dei Paesi Bassi e dei loro vicini se l'Inghilterra avesse firmato la spesso proposta pace con la Germania. I Paesi Bassi sarebbero diventati tedeschi, punto e basta. Tutti quegli olandesi che guardano ancora con disprezzo gli inglesi, l'Inghilterra, e definiscono pigri gli inglesi e lo stesso odiano i tedeschi, devono essere scossi come si scuote un cuscino. Poi forse i loro cervelli confusi si sistemeranno in posizioni un po' migliori. Sarà perché non metto il naso fuori da tanto tempo, che tutto quello che riguarda la natura mi fa impazzire. E ricordo benissimo che prima un cielo azzurro limpido, un cinguettio d'uccelli, il chiaro di luna e i fiori non riuscivano a mantenere a lungo il mio interesse. Qui è cambiato. A Pentecoste, per esempio, quando faceva così caldo, mi sono sforzata di tenere gli occhi aperti fino alle 11:30 di sera per poter guardare bene e da sola la luna dalla finestra. Purtroppo i miei sforzi sono stati inutili, dato che la luna era troppo luminosa e non si poteva rischiare di aprire la finestra. Un'altra volta, sempre mesi fa, per caso ero di sopra una sera che la finestra era aperta. Non sono tornata giù prima che finisse l'ora d'aria. La serata scura e piovosa, il vento e le nubi che si rincorrevano mi tenevano prigioniera. Per la prima volta dopo 1 anno e mezzo avevo rivisto dal vivo la notte. Dopo quella sera il desiderio di rivederla ancora una volta è diventato più grande della paura dei ladri, dei ratti al buio e degli assalti. Andavo giù sola soletta a guardare dalla finestra dell'ufficio privato e della cucina. Molte persone amano la natura, molti dormono anche all'aperto o, chiusi in prigione o in ospedale, desiderano rivedere la luce del giorno, tornare a godere liberamente della natura. Ma pochi sono così isolati da quello che è uguale per i ricchi e per i poveri. Non è una mia fantasia che vedere il cielo, le nuvole, la luna e le stelle mi dia un senso di tranquillità e di attesa. È molto meglio della valeriana o del bromuro. La natura mi fa sentire piccola e mi dà il coraggio di affrontare tutte le avversità. Il destino ha voluto così, che io potessi vedere la natura solo in alcune rare occasioni e attraverso finestre tutte impolverate e coperte di tende spesse. In tal modo non è più nemmeno piacevole. La natura è proprio l'unica cosa per cui non ci possono essere sostituti. Più volte mi sono posta una di quelle domande che non mi danno pace, e cioè perché un tempo, e spesso anche adesso, la donna nei popoli occupa un posto molto meno importante rispetto all'uomo. Chiunque può dire che è ingiusto, ma a me non basta. Vorrei tanto conoscere il motivo di questa grande ingiustizia. Si può immaginare che l'uomo, fisicamente più forte, fin dall'inizio, abbia avuto una posizione di supremazia rispetto alla donna. L'uomo che guadagna, che genera i figli, l'uomo che può tutto. È già stato abbastanza stupido da parte di tutte quelle donne che fino a poco tempo fa hanno permesso che fosse così senza protestare. Perché quanti più secoli questa regola ha resistito, tanto più ha preso piede. Per fortuna la scuola, il lavoro e il progresso hanno un po' aperto gli occhi alle donne. In molti paesi le donne hanno ottenuto gli stessi diritti degli uomini. Molte persone, soprattutto donne, ma anche uomini, adesso capiscono quanto questa suddivisione fosse sbagliata e le donne moderne vogliono avere il diritto all'indipendenza totale. Ma non è solo questo, è il rispetto della donna. Quello manca. In tutto il mondo l'uomo viene rispettato, ma perché non si può dire lo stesso della donna? Soldati ed eroi di guerra vengono onorati e festeggiati, gli scopritori hanno fama immortale, i martiri vengono osannati, ma di tutta l'umanità Quanti considerano la donna anche come un soldato? Nel libro Guerrieri per la vita c'è scritta una cosa che mi ha molto colpita, e cioè più o meno che le donne in generale, già soltanto per i parti, soffrono più di qualsiasi eroe di guerra. E quale successo spetta alla donna dopo aver sofferto tanto? Viene spinta in un angolo quando è sformata dalla gravidanza, i figli ben presto non sono più suoi, la bellezza svanisce, le donne sono molto più stoiche, sono soldati più coraggiosi che lottano e soffrono per la sopravvivenza dell'umanità, molto più di tanti eroi che non sanno fare altro che vantarsi. Con questo non voglio affatto dire che le donne debbano rifiutarsi di mettere al mondo bambini, anzi, così è per natura e così è giusto che sia. Condanno solo gli uomini e tutto l'ordinamento del mondo che non ha mai voluto rendersi conto del grande, pesante, ma d'altronde anche del bel fardello che la donna porta nella società. Paul de Graaf, lo scrittore del libro sopracitato, ha tutta la mia approvazione quando dice che gli uomini devono imparare che la nascita ha cessato di essere un fatto naturale e normale in tutte quelle zone del mondo che vengono definite civilizzate. Hanno un bel dire gli uomini. Non hanno mai sopportato, né mai sopporteranno, le pene che toccano alle donne. Secondo me, il concetto che sia dovere della donna avere figli nel corso del prossimo secolo si modificherà e verrà sostituito da rispetto e ammirazione nei confronti di colei che si prende sulle spalle i pesi senza brontolare né darsi tante arie. Tua Anne Marie Frank. Venerdì 16 giugno 1944. Cara Kitty, nuovi problemi. La signora ha perso ogni speranza, parla di pallottole in testa, impiccarsi e suicidio. È gelosa perché Peter si confida con me ma non con lei. È offesa che Dussel se ne fa un baffo delle sue smancerie. Ha paura che suo marito si fumi tutti i suoi soldi della pelliccia. Attacca briga, sgrida, piange, si lamenta, ride e poi ricomincia ad attaccare briga. Che fare di una persona così piagnucolosa e assurda? Nessuno la prende sul serio. Carattere non ne ha. Si lamenta con tutti e va in giro come una specie di mummia ambulante. Ma il peggio è che Peter le risponde male. Il signor Van Dan diventa irritabile e la mamma cinica. Che circo! C'è una sola regola che bisogna rispettare attentamente, sorridere sempre e non lasciarsi turbare dagli altri. Sembra da egoisti, ma in realtà è l'unico rimedio per chi ha compassione di se stesso. Kugler deve andare a spalare per 4 settimane ad Alkmaar. Tenterà di evitarlo con un certificato medico e una lettera dell'OPECTA. Kleiman, tra non molto, vuole farsi operare allo stomaco. Ieri sera alle 11 tutte le linee telefoniche private sono state tagliate. Tua Anne Marie Frank. Venerdì 23 giugno 1944. Cara Kitty, niente di speciale da queste parti. Gli inglesi hanno dato il via al grande assalto di Cherbourg. Secondo Pim e Van Dan, il 10 ottobre saremo liberi. I russi prendono parte all'azione. Ieri hanno lanciato l'offensiva a Vitebsk, giusto 3 anni dopo l'invasione tedesca. Beppe ha tuttora il morale sotto i tacchi. Non abbiamo quasi più patate. In futuro pensiamo di contare le patate e dividerle tra tutti, così poi ognuno potrà decidere che cosa farne. Miep da lunedì si prende 1 settimana di ferie. I dottori di Kleiman non hanno trovato niente sulle radiografie. È molto indeciso tra l'operazione e lasciare che tutto segua il suo corso. Tua Anne Marie Frank. Martedì 27 giugno 1944. Carissima Kitty, l'umore generale è completamente cambiato. Va benissimo. Cherbourg, Vitebsk e Slobin oggi sono cadute. Sicuramente molto bottino e tanti prigionieri. 5 generali tedeschi sono caduti a Cherbourg, 2 sono stati fatti prigionieri. Adesso gli inglesi possono sbarcare quello che vogliono perché hanno un porto. Tutto il Cotentin 3 settimane dopo l'invasione è inglese. Un successo incredibile. Nelle 3 settimane dopo il D-Day non c'è ancora stato un giorno senza pioggia, tanto qui quanto in Francia. Ma questa sfortuna non impedisce agli inglesi e agli americani di dimostrare forza enorme. E come la dimostrano? La VUVA è in piena azione. Ma che cosa faranno mai quei petardi se non qualche danno in Inghilterra e riempire i giornali dei crucchi? Comunque, se i crucchi si renderanno conto che il pericolo bolscevico si avvicina, gli verrà ancora più tremarella. Tutte le donne e i bambini tedeschi che non lavorano per la Wehrmacht vengono evacuati dalla fascia costiera e portati in Grodinga, in Frisia e in Geldria. Musser ha dichiarato che lui, se l'invasione arriverà qui, si infilerà una divisa da soldato. Che quel grassone voglia andare a combattere, avrebbe fatto meglio ad andare in Russia. A suo tempo la Finlandia ha rifiutato l'offerta di pace. Anche adesso le trattative a questo riguardo sono interrotte. Come si pentiranno quelle teste di rapa? A che punto pensi saremo il 27 luglio? Tua Anne Marie Frank. Giovedì 6 luglio 1944. Cara Kitty, mi si stringe il cuore quando Peter dice che forse un domani farà il delinquente o lo speculatore. Anche se ovviamente so che scherza, ho la sensazione che lui stesso abbia paura della sua debolezza di carattere. Peter e Margot continuano a dirmi: sì, se fossi forte e coraggioso come te, se riuscissi a fare quello che voglio, se avessi tanta energia come te, allora... È davvero positivo non lasciarsi influenzare? È bene che io segua esclusivamente la mia coscienza? A dire il vero, non riesco a immaginare come uno possa dire «sono debole» e esserlo effettivamente. Quando si sa una cosa del genere, perché non impegnarsi a cambiare? Perché non educare il carattere? La risposta è «perché così è tanto più facile». Questa risposta mi mette un po' di cattivo umore. Facile. Una vita pigra e disonesta deve essere anche facile. No, non può essere vero. Non può essere che la facilità e i soldi corrompano così in fretta. Ho pensato a lungo che cosa devo rispondere e come convincere Pete a credere in sé e soprattutto a correggersi. Non so se ho pensato bene. Tante volte ho pensato come sarebbe bello che qualcuno mi desse la sua fiducia, ma adesso, solo adesso che l'ho ottenuta, vedo quant'è difficile pensare completamente con la testa dell'altro e trovare proprio la risposta giusta, soprattutto perché i concetti facile e soldi per me sono del tutto nuovi. Peter comincia ad appoggiarsi un pochino a me. È una cosa inammissibile. Vivere reggendosi sulle proprie gambe è difficile, ma è ancora più difficile essere soli nel carattere e nell'anima e lo stesso restare saldi. Sono un po' confusa, ci penso da giorni. Sono in cerca di un rimedio efficace contro la terribile parola facile. Come posso spiegargli che quello che sembra tanto facile e bello lo trascinerà negli abissi dove non ci sono amici né sostegni? Dove non c'è più niente di bello, gli abissi da cui è quasi impossibile risalire. Tutti viviamo, ma non sappiamo perché né per cosa. Viviamo in modo diverso eppure uguale. Noi tre siamo stati educati in un bell'ambiente. Possiamo studiare e abbiamo la possibilità di raggiungere qualcosa. Abbiamo molti motivi per sperare di avere fortuna, ma dobbiamo meritarcela. Ecco una cosa che non è mai facile. Meritarsi la fortuna significa impegnarsi e agire per il bene e non speculare ed essere pigri. La pigrizia può sembrare attraente, ma lavorare dà soddisfazione. Quanto sarebbero belli e buoni tutti se ogni sera, prima di addormentarsi, ripensassero agli eventi della giornata e stabilissero con precisione che cosa hanno fatto bene e che cosa male. Involontariamente allora ogni giorno cerchi di migliorarti ed è facile col tempo ottenere risultati. Questo rimediuccio è alla portata di tutti. non costa niente ed è sicuramente molto utile, perché chi non lo sa deve impararlo e provare. La coscienza tranquilla rende forti. Tua Anne Marie Frank. Oh,